sapere perché opera e lavora per te. Voglio sapere cosa che li rende schiavi di te. Voglio sapere perché, ma tanto non lavori da me. Le padrone delle mie matite, perché se io ti spaccherò il culo, noi ti spaccheremo il culo. Cassa integrazione licenziati, sono sempre più disoccupati, senza reagire questa merda cittadina, sempre più incomini, da palla alla rovina. Voglio sapere perché opera e lavora per te. Voglio sapere cosa te li rende schiavi di te. Voglio sapere perché, passando lo lavori da me. Sei padrone delle mie fatiche, perché se io ti spaccherò il culo.